si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ci ritroviamo per un appuntamento registrato anche questo weekend, sabato e domenica mattina. Si può fare in questi giorni di festa, è diventato la buona sera dalle 18 alle 20:30 in diretta tutti i giorni. Il sabato e la domenica continuiamo a farvi compagnia con il meglio delle storie che abbiamo mandato in onda nelle scorse settimane. In questi tempi di crisi, tempi nei quali le banche hanno stretto la cinghia del credito, siamo andati a trovare un comune che si è messo a fare lui la banca e presta a tasso zero quei soldi che sono necessari alle famiglie, alle persone, insomma, per arrivare alla fine del mese, spese davvero necessarie e improrogabili. Sempre in tema di solidarietà, vi faremo risentire la storia di Trento, dove il comune assiste i senza tetto coinvolgendo alcuni ex senza tetto che nel frattempo però hanno migliorato la loro situazione. Poi andremo a Bologna, dove c'è una strada che ha fatto scuola, è la Social Street di Via Fondazza. Li avevamo incontrati qualche tempo fa, ve li faremo risentire. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, intanto, sempre a proposito di banche, c'è un'altra notizia. Perché insomma c'è un po' un cortocircuito, le banche che non fanno più le banche perché non prestano più i soldi, la politica che non risolve i problemi dei cittadini e in questo caso un comune, cioè la politica, che fa la banca. Accade a Giussago, in provincia di Pavia, dove questo piccolo comune ha messo su in piedi un progetto di microcredito, cioè loro prestano i soldi alla gente a tasso zero. Cioè, si sostituiscono alla banca. Diciamo, fanno la banca, modo. Fanno la banca. Perché... Visto che la banca si è sostituita alla politica, perché chi comanda veramente, diciamo... Sono le banche, esatto. È una situazione pazzesca. Però io dico, restiamo alla soluzione proposta, mi sembra una soluzione ottima. Fra l'altro il tasso di restituzione dei prestiti è altissimo, cioè non c'è... non c'è gente che fa il furbo, insomma. Sentivo il tasso altissimo, non avevo capito. Già essendo ti preoccupavi. Ignorante. Non ci sono in questo caso sofferenze. Abbiamo convocato il sindaco di Giussago nella persona di Massimiliano Sacchi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno sindaco. Allora, intanto, da quanto tempo va avanti questa iniziativa che noi abbiamo scovato in questi giorni? Eravamo a caccia di notizie sul mondo delle banche. È stata rilanciata dalla cronaca locale delle vostre parti. Da quanto tempo siete attivi? Sì, è un'iniziativa che abbiamo messo in campo dalla fine dell'anno scorso, inizio di quest'anno, sì. Quindi chiaramente ha anche una sfumatura provocatoria. Sì. Quindi è da circa un anno che è attiva, noi siamo un piccolo comune, un comune di 5.000 abitanti, abbiamo pensato tra le altre iniziative, perché ormai tra il taglio dei trasferimenti, il patto di stabilità e tutte queste belle cose, c'è rimasta solo la fantasia. Io dico che è quasi esaurita anche quella, però tra le varie iniziative che abbiamo fatto abbiamo inserito. Però perché lei dice una cosa quasi provocatoria? Perché io so che in realtà questa cosa la state facendo, avete già erogato diversi prestiti. Sì, provocatoria perché noi abbiamo messo bilancio 15.000 euro, la notizia positiva è che le imprese locali, alcuni imprenditori locali hanno colto di buon grado questa iniziativa e l'hanno raddoppiata, mettendo in tasca loro altre 15.000, quindi questo mi ha fatto molto piacere, per il principio di aiutare chi è in difficoltà. È chiaro che noi non riusciamo a risolvere questo problema. Cioè voi non è che potete erogare più di tanto, avete questo fondo a disposizione, per cui se ho letto bene ogni volta che viene restituito un prestito potete erogarne un altro. Facciamo dei bandi e andiamo ad integrare, riproponiamo il bando e lo andiamo a riassegnare. Chiaramente l'importo è talmente piccolo che non può risolvere i problemi. Però trovo assurdo, noi siamo bombardati di cifre, milioni, di miliardi, che io faccio fatica anche a comprendere e a scrivere, trovo assurdo che non si riesca in questo paese a creare una quota, seppur anche minima, chiamiamola di solidarietà, che metta in condizione le banche di poter erogare. Guardate che a volte, perché questo, scusi sindaco, questo si chiama, come si chiama, prestito d'onore, microcredito? Sì, noi l'abbiamo chiamato prestito d'onore perché le garanzie sono l'onore. Chiaramente chi può accedere a questo prestito deve essere cittadino italiano, oppure se non ha cittadinanza italiana deve avere il permesso di soggiorno con validità fino al tempo di restituzione. deve non avere un ISEE superiore a 17.000 euro, ovviamente, quindi un reddito basso, deve avere condizioni che non gli consentano di accedere al credito, però queste condizioni sono condizioni che a volte sono stupidate, nel senso che uno che ha fatto un piccolo errore una volta la vita è segnato, è nella centrale rischi e è finito. Quindi voi qua date fino a 3.000 euro, se ho letto bene, sì. Avete già fatto una decina di prestiti o forse sì, qualcosa di più, ho letto su bene 14 domande ne abbiamo segnati 10, 4 non abbiamo segnate perché erano veramente questo non è un aiuto sociale, ma quindi uno deve dimostrare in qualche modo, quindi di essere poi in grado di restituirle. Esatto. Anche perché se uno restituisce sì, alimenta in modo virtuoso il fondo, altrimenti si rischia di bloccare il tutto, insomma. È un'idea vecchia, cioè voglio dire quanto il mondo, no? Questa non abbiamo inventato nulla. Non avete inventato nulla, però avete riscoperto, insomma, rispolverato una vecchia ricetta che funziona. Io so di racconti mitici in Svezia, dove i ragazzi si finanziano gli studi universitari col prestito d'onore. In Italia è più difficile fare queste cose. Perché, secondo lei? Ma perché a volte si pensa, io credo che ci sono molti annunci in Italia, no? Poi si fa fatica a tradurli in cose concrete. E chi è probabilmente a Roma, io sento parlare annunci 100 milioni per la scuola, mi ricordo il governo Monti, no? Che fine hanno fatto, ad esempio? Che poi uno dice, se li dessero Monti direttamente a 1 milione per uno a 100 scuole, sarebbero almeno 100 scuole felici. Oppure non si sa dove sono gli enti locali che sono veramente vicini ai cittadini, tutto diventerebbe. Pensate solo a quello che ci stava dietro la formazione. La formazione cosa ha fatto? Ha arricchito i formatori. Quindi se questi soldi fossero stati messi a disposizione per le piccole amministrazioni, probabilmente si potevano fare delle grandi cose, perché noi tutti i giorni qui viviamo la quotidianità, non possiamo semplicemente dire noi non ci occupiamo di lavoro, io passo le giornate a ricevere persone che mi chiedono un posto di lavoro, quindi è cambiato anche completamente il modo di fare amministrazione, oggi l'amministrazione si deve occupare di problemi per cui non è attrezzata ad occuparsi, i tagli alla scuola in qualche modo li abbiamo subiti noi, abbiamo dovuto inventarci qualcosa per subirli, per superare questi problemi, quindi non so se Gabardini voleva fare una domanda, vuole venire a prendere un prestito a Giussago. No, mi sembrava molto bella. Era molto bella, secondo me, la questione del fatto che uno inizia a fare una cosa così. Infatti, giustamente lei diceva, è una cosa anche provocatoria. Non è tanto che lei si vuole sostituire la banca, però è come per dire, le banche non lo fanno, iniziamo a farlo noi, perché questa cosa qua è utile. Infatti mi sembra molto bello, come molto bello il fatto di dire bisogna partire dal piccolo, perché ovviamente il sistema banca, nel momento che uno ha qualunque tipo di problema, non ti dà il prestito. Voi invece li conoscete, le persone che vi vengono a chiedere i soldi, ed è ovvio che quindi si può recuperare. Uno magari ha fatto un errore in passato, però voi sapete chi è, a quel punto glielo concedete un prestito e probabilmente gli salvate la vita, quindi ottimo. Devo anche dire che probabilmente ci saranno anche altri comuni che magari sentendoci dicono ma lo facciamo anche noi, perché parlate solo di Giussago? Parliamo di Giussago perché l'iniziativa è recente, perché abbiamo trovato questa, però se, cari amici che ci ascoltate, scriveteci su Facebook, su Twitter, dove volete, alla mail, per raccontarci le vostre storie di microcredito o prestiti d'onore nei comuni, perché saremo felici di raccontarle nelle prossime puntate. Sindaco, insomma, complimenti, che dire, andrete avanti con questa cosa ancora per un po'? E cercheremo di andare avanti, insomma, nel limite del possibile, cercheremo di fare ogni sforzo per andare avanti come stiamo andando avanti su altri interventi. Però non vi indebitate voi con le banche, perché sennò diventa davvero un cortocircuito. Assolutamente no, infatti ci ho tenuto a dire che insomma la parte anche di questi importi è arrivato da imprese private, che insomma, quindi questo fondo si è anche alimentato e questo mi ha fatto molto piacere. Grazie mille. Grazie a voi e buona giornata. In bocca al lupo per tutto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Fantozzi, ragioni Rugo. Matricola 1001 Barabis. Dell'ufficio sinistri. Lei venghi qua. Sì, signor mega direttore. No, va di là. E si muovi. Ah, hanno messo la parete a vetri. Sveglia e caffè, barba e bidet. presto che perdo il tram. Vabbè, questo è Fantozzi che perde il tram, meraviglioso per chi se lo ricorda. La notizia è questa, che c'è un avvocato che è riuscito a far risarcire i suoi clienti, una ventina credo di persone, per non solo i ritardi ma anche il disagio e lo stress subito dai pendolari in giorni e giorni di ritardi, di riscaldamento che non funziona, di aria condizionata che non funziona, di carrozze sovraffollate. Questo eroe è Pierluigi Piromalli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Un eroe moderno dei nostri tempi, perché in effetti non è facile vincere le cause di questo tipo, non è una class action, è una causa. Quanti sono i suoi clienti, Piromalli? Allora, i miei clienti sono 21. La ringrazio innanzitutto per l'attestato di stima. Di benevolenza, vabbè, questo, di stima eterna, perché chiunque ha fatto per un po' il pendolare sa davvero quali sono. E tutti, tra l'altro, sognano esattamente di essere risarciti, sì, non semplicemente del biglietto, ma del fatto che hanno avuto dei disagi pazzeschi che non sanno nemmeno come spiegare. Allora, il suo, come si chiama? La sua controparte era Trenord. Trenitalia. Trenitalia era il gestore del servizio. Quando noi abbiamo promosso l'azione nei confronti dell'ente, Trenitalia gestiva la tratta ferroviaria Bergamo-Milano. E poi adesso non la gestisce più? Adesso è Trenord, okay. Succeduto Trenord come ente. Sì, ci racconti? Per quanto riguarda la causa, ripeto, ecco, sono 21 pendolari che si sono rivolti appunto a sottoscritto e lamentavano sostanzialmente delle criticità sulla linea Bergamo-Milano e frequenti disservizi che si erano determinati sempre su questa linea. E si è reso quindi necessario valutare questa situazione, che ormai era insostenibile, e quindi di fronte alla sistematicità e alla reiterazione anche di questa situazione di disagio si è deciso di proporre questa causa avanti il giudice ordinario del... Perché, per esempio, Piromalli, una delle cose che voi avete messo in evidenza è che, non so, un treno su cui si segnalava un disagio la mattina, poi questa cosa andava avanti tutto il giorno, quindi diciamo, certo, pur essendo stata informata, l'azienda non faceva nulla, evidentemente non poteva fare nulla perché non aveva carrozze alternative dove non c'era riscaldamento. A quel punto però, insomma, il comportamento c'era una responsabilità che andava oltre la logica dell'incidente, per esempio. Poi lo stress, cioè avete messo dentro anche la questione dello stress. Sì, perché noi abbiamo impostato la causa ispirandoci anche all'unico precedente che avevamo, ed era quello del giudice di pace di Piacenza, l'unica isolata sentenza che aveva affrontato la categoria del risarcimento del danno non patrimoniale, cioè appunto quel danno che abbraccia lo stress psicofisico, il disagio e quant'altro. E la nostra peraltro è stata una causa esplorativa, la definisco così perché non avendo precedenti giurisprudenziali consolidati sui quali ovviamente poter fare affidamento. Però adesso quindi c'è un precedente, è così? Adesso c'è questo precedente, che è un precedente di un giudice di merito di primo grado. E quindi tutti possono accodarsi, diciamo, in qualche modo, se hanno subito lo stesso tipo di danno a questa causa? Beh, sicuramente sì, ci sono comunque, adesso c'è un... Poi dovete andare in Cassazione ancora? Beh, allora, noi abbiamo vinto la causa di primo grado, sì. Trenitalia, poi Trenord ha appellato, solo che in appello si è determinato un problema di carattere procedurale, quindi la Corte d'Appello non è entrata nel merito della sentenza di primo grado. Ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Trenord e Trenitalia, hanno deciso di ricorrere in Cassazione, noi adesso stiamo aspettando la decisione della Corte di Cassazione. Vi verremo a trovare di nuovo, perché a quel punto siamo curiosi di sapere, perché se c'è, come diceva Gabardini, però, il precedente, poi si apre una strada. Tra l'altro aggiungo che si apre anche una strada in negativo, un disincentivo per queste aziende a stare più attente, perché è chiaro che finché, insomma, questa è una logica che vale in tutti i campi sempre e comunque, finché non ti beccano, non ti danno la multa o non ti fanno pagare l'esagimento, allora tu, cioè, sai che ti puoi anche allargare. Ma infatti, per fare un esempio, fa sempre ridere che sul Frecciarossa, mi sembra, mi corregga avvocato se sbaglio, che viene pagato il rimborso del biglietto se il ritardo supera la mezz'ora, e spessissimo si arriva a 29 minuti in ritardo. Quindi un po' come per dire, noi lo sappiamo, cioè quella roba lì è di tolleranza, finché riusciamo a non pagare la multa loro si sbattono per arrivare a 29 minuti, quindi evidentemente se la multa, diciamo, se il rimborso fosse dopo 9 minuti, forse loro loro non farebbero nemmeno 9 minuti di ritardo. Non so se mi sono spiegato. Il meccanismo degli incentivi. Sicuramente, peraltro poi sul discorso ritardi ci sarebbe poi da fare un discorso molto particolare. Lo faremo più avanti, Piromalli. Grazie, esatto. No, ma l'importante è avere dato così un po' d'ossigeno ai pendolari. Sappiate che da questo avvocato, ma anche da altri, se vi organizzate bene, potete ottenere giustizia. Da lui ci torneremo quando ci sarà stata la Cassazione. A quel punto, se c'è il precedente, insomma, metteremo un timbro. Anche perché ho curioso di sapere quanti soldi prendono. 90.000 euro. Ah, 90.000 euro. In 21, perfetto. Sì. Beh, insomma, una cifretta che... Beh, mica male. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Andiamo però a Trento per parlare di una iniziativa del Comune di Trento di aiuto, di sostegno a chi è in condizioni di bisogno e senza fissa dimora in particolare, un'iniziativa che coinvolge proprio anche le stesse persone in difficoltà della serie Attiviamo le risorse che ci sono. Salutiamo Elisa Larker, assistente sociale di Trento, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E anche Kalilu. Buongiorno. Buongiorno. Un cittadino di origini ivoriane, lui stesso viene dalla strada, ex senza fissa dimora, adesso è stato coinvolto in questo percorso di auto mutuo aiuto. Elisa, intanto complimenti, perché di queste iniziative ne vorremmo sentire sempre di più, anche a Milano, la città dove viviamo, ci sono delle cose del genere, si cerca di farle. In che cosa consiste questo progetto intanto? Allora, questo progetto è fatto da un insieme di iniziative che stiamo cercando di portare avanti da circa 2 anni a questa parte, e in questo progetto sono coinvolti diversi attori. Dal Comune di Trento, quindi un ente pubblico, ad alcuni enti privati, tra cui la cooperativa Villa Sant'Ignazio, la Fondazione Comunità Solidale, delle associazioni e la cosa più interessante direi la partecipazione attiva delle persone che vivono questo disagio, questo problema della precarietà abitativa. E tra operatori, persone e servizi, istituzioni, cerchiamo di portare avanti una serie di percorsi e di progetti. Perché Elisa, attivare le stesse persone che sono in difficoltà diventa un vantaggio per loro, che si attivano appunto e entrano anche un po' in un ruolo coperto anche dal comune, e per voi che forse avete delle facilitazioni a cercare di entrare nel mondo dei senza fissa dimora, è un po' questo doppio valore aggiunto. Questi sono alcuni dei vantaggi che noi verifichiamo nella sperimentazione di queste attività, perché le persone vengono responsabilizzate, le stesse istituzioni possono condividere insieme alle persone la responsabilità di questi interventi, si lavora meglio in un clima di fiducia, di partecipazione, le attività, le iniziative che vengono promosse vengono anche maggiormente legittimate. Quante persone sono coinvolte in questo progetto e anche quanto investe il Comune di Trento per fare queste politiche? Ma dire un numero di persone adesso mi risulta un po' difficile, perché è in continuo movimento. Diciamo ma anche solo più o meno per capire. Decine, centinaia, migliaia? Milioni? No. Beh, intanto già abbiamo un gruppo di persone che hanno vissuto l'esperienza di senza dimora, che noi chiamiamo HOPE, sono gli Homeless Peers, e loro in questo momento sono circa una decina. E stanno collaborando attivamente in alcuni servizi, tra cui anche la gestione di due case, che noi vogliamo chiamarle case e non più dormitori, perché portiamo avanti insomma questa idea di casa, di famiglia, di ma quindi sono ex diciamo senza fissa dimora che invece collaborano con voi adesso, e sono 10, una decina insomma. In questo momento sono una decina. Uno, e in questi 2 anni sono cambiati, non sono sempre le stesse persone. Il nostro desiderio è quello di coinvolgere anche sempre, nuove persone. Sempre di più. Uno di loro Elisa, scusami, uno di loro è Kalilu, vero? Esattamente, è qui con me. Che abbiamo in linea. Kalilu, buongiorno. Buongiorno. Come va? E da quanti anni è in Italia, Kalilu? Io sono in Italia da 5 anni adesso. Ah, e per quanto tempo hai vissuto, diciamo, senza una casa e quindi anche in strada? Per la strada, senza casa, diciamo che ho vissuto più o meno 2 anni. Due anni. Quindi adesso ti sei, sono già 2 o 3 anni che ti sei risollevato da questa situazione? Non al 100%, però molto migliorato. Beh, però hai una casa. Ecco, sì, per ora non vivo in strada, quindi ho una casa, sì. E aiuti invece gli altri, diciamo, coloro che ancora sono senza casa e che usufruiscono dei vostri servizi, giusto? Sì, sì, certo. Calilu, ma come si finisce in strada oggi, per esempio a Trento? Quali sono le cause? Stranieri come te che arrivano e non hanno un lavoro, magari clandestini, oppure anche italiani che hanno perso il lavoro? Per me in strada, quando si vive in strada, alle volte la gente pensa che il problema di chi vive per strada, o forse per chi l'ha scelto, o per chi come me è venuto da lontano, lontano dalla sua famiglia. Ma ci sono altri molti motivi. C'è chi ha perso il lavoro e che non ce la fa più a pagarsi la casa, tutto quanto. Ci sono anche i problemi di divorzio tra genitori. Alle volte uno si ritrova senza risorse e in più, se non lavora, diventa... Padri separati, soprattutto? Ecco, ci sono anche quelli che hanno scarsa condizione di salute e tutto quanto. Ma c'è anche chi lo sceglie, perché non so se è parte di un mito, c'è che a volte ci mitologia si racconta, del barbone, no? Sì. Del barbone che è in realtà uno che decide, che non vuole avere una casa, che vuole vivere per strada. Veramente io sento questa frase, questa parola molto spesso, però non è tanto vero. Io direi di no, anche se fosse così per qualcuno non sarebbe più dell'1%. Ah, ok, questo è interessante, questa è una notizia, perché noi non lo so se sono stati i nostri genitori che a volte per tranquillizzarci ci raccontavano che ci sono anziani che hanno piacere a vivere senza una casa, che un po' fa un po' il paio con quel mito quando ogni tanto si trova qualche barbone che ha i miliardi dentro nel materasso, e allora per tranquillizzarci tutti e lavarsi la coscienza ci viene detto guarda che in realtà hanno i soldi, ma non è così. Però insomma non è più dell'1%, Calilu. Io potrei approfittare per dire a forse chi pensa ancora che questa è una scelta di uscire, non so, in questi giorni fare la notte fuori a vedere, anche con una coperta, a vedere cosa succede. Senti, poi, Calilu, ma dopo potrai giudicare hai meglio. Hai pienamente ragione. Lo consigliamo di farlo anche qua a Milano, che nevica stanotte. Ma Calilu, si riesce ad uscire da questa condizione? Cioè, i percorsi del comune, l'aiuto che anche voi ex senza fissa dimora date, tendete la mano a queste persone, riuscite a portarne con voi alcuni? Veramente noi cerchiamo di fare quello che possiamo, e il nostro obiettivo è di poter riuscire a portare fuori il più grande numero possibile, certo, con il nostro piccolo aiuto, che non è che può salvare tutti. Però vorrei girare questa domanda grazie Calilu, anche a Elisa Larker come assistente sociale del Comune di Trento. Questo lavoro che voi fate, facciamo una percentuale su 100 persone che contattate, quanti vi vengono dietro e quanti invece vi girano le spalle? Ma diciamo che allora capire esattamente qual è l'esito di questi percorsi è difficile, perché le persone, qualcuno ci mette più tempo ad aderire a questi percorsi, a migliorare la propria condizione, anche perché magari ha dei problemi complessi alle spalle da affrontare, quindi non per tutti è il momento giusto quello di... bisogna capire qual è il momento giusto per iniziare a uscire dalla loro situazione. Quello che noi cerchiamo di fare è di accompagnare in questo percorso le persone, con sia attraverso un sapere esperienziale che è quello degli OP, che è quello degli utenti che hanno vissuto questa esperienza, sia attraverso un sapere accademico che è quello degli operatori. Cerchiamo di mettere insieme questi due diversi saperi che secondo noi si integrano in maniera più efficace. Bravi, bravi, complimenti per quello che fate, davvero grazie per averci raccontato anche la vostra storia, Elisa Larker e Calilu. In bocca al lupo a Trento per in questo progetto, che lo ricordiamo, grazie, insomma, c'è anche in altre buona città. Giornata. Buona giornata. A voi. Si può fare cronache da un paese migliore. And the critics all agreed it was a stinky pile of cheese, but that does not mean that our hearts are not strong. just like the phoenix. We'll fucking rise again, yeah. Dance at the phoenix. We'll rise again. Rise the Phoenix, hai sentito che scelta musicale? Bellissima. Dai, poi troviamo tutti i link sempre sulla pagina internet di Si Può Fare sul sito radio24.it, perché parliamo della Phoenix Pharma, ma anche perché parliamo dell'Araba Fenice, cioè della rinascita delle imprese in Italia grazie all'impegno in prima linea dei lavoratori, come succede appunto alla Phoenix Pharma. E noi abbiamo convocato Salvatore Manfredi, che è il presidente. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Parliamo di aziende, anche questa settimana abbiamo avuto tavoli al Ministero dello Sviluppo Economico, l'Alcoa, sono tante le fabbriche che stanno chiudendo, che hanno già chiuso, che stanno cercando di sopravvivere con aiuti, incentivi, con piani di ristrutturazione. Qualche giorno fa la Indesit ha annunciato una riduzione del piano di esuberi, per esempio. Per fortuna ogni tanto accade. La Whirlpool in Lombardia, notizia di due giorni fa, rilancia grazie a un protocollo firmato con il presidente Maroni. Ci sono però aziende che non ce l'hanno fatta. Aziende che però non ce l'hanno fatta, ma ce la stanno facendo con l'ingresso in campo dei lavoratori, come è accaduto nel vostro caso. Manfredi, a quando risale il vostro ingresso, diciamo così, al posto della vecchia proprietà, che era una proprietà autorevole perché è una multinazionale? Sì, esattamente, è una multinazionale del farmaco americana, che decise più o meno ad aprile del 2011 di chiudere tutte le sue attività commerciali in Europa, mandando a casa circa 500 lavoratori, di cui oltre 150 in Italia. A quel punto ci si è guardati un po' in faccia, un po' di persone, abbiamo detto: che cosa dobbiamo fare? Peraltro persone, diciamo, con età media intorno ai 40-45 anni, come potete ben intuire, difficilmente ricollocabili nel mondo del lavoro. Quindi è venuta fuori la proposta di mettere su una cooperativa, quindi di essere in qualche modo protagonisti del nostro stesso destino. La scelta cooperativa è stata una scelta di valori prima di tutto, e ovviamente legata alla forte necessità del momento, perché erano tutte persone in mobilità. Ora, fra l'altro, di iniziative simili, scusi se la interrompo, poi la faccio proseguire naturalmente, ce ne sono. Prego. Di cooperative, abbiamo sentito l'altra settimana la Videocop, che ha preso il posto della Videocon sempre nella zona di Roma, la Rimaflov di Trezzano sul Naviglio a Milano. Però insomma, a volte si fa un po' di fatica a trovare sbocchi sul mercato e a dare una vera veste imprenditoriale. Invece voi, la vostra storia dimostra che invece siete proprio riusciti a creare un'azienda che fa un fatturato. Quanto fatturate adesso? Quest'anno dovremmo chiudere intorno ai 4 milioni e mezzo di fatturato. Abbiamo iniziato l'attività a gennaio del 2012, per cui insomma il tempo è abbastanza breve. Devo dire, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Siamo sempre fragili, per carità, però quanti lavoratori dipendenti, diciamo, della ex azienda sono subentrati in questa cooperativa? 40, tutti sotto forma di soci. Sì. E poi occupiamo altre 22 persone che non sono soci, ma che insomma collaborano con noi in varie forme. La definizione workers buyout che circola vi corrisponde o no? Cioè lavoratori che praticamente... Direi di no, cioè, nel senso che, o meglio, secondo alcuna scuola di pensiero noi potremmo essere un workers buyout non convenzionale, nel senso che non abbiamo preso asset tipo, che ne so, siti produttivi, fabbriche, uffici della vecchia azienda, ma ci siamo solo coagulati come capitale umano che aveva quelle esperienze, anche di formazione manageriale, perché credo che uno dei motivi della buona riuscita, fino ad ora ovviamente, con tutti gli scongiuri del caso, sia legata anche un po' alla formazione manageriale che molti di noi hanno avuto nella precedente azienda. Cioè voi avevate ruoli chiave nell'azienda e quindi vi siete portati dietro questo, possiamo dirlo in inglese, know-how, si dice così, no? Sì, questo anche background, se vogliamo, sì, assolutamente sì. Ma sì, abbondiamo, va. E siamo comunque un'anomalia anche nel mercato farmaceutico, perché mi risulta che siamo la unica società farmaceutica, seppur di piccole dimensioni ovviamente, che ha questa forma di cooperativa società per azioni. Noi abbiamo fatto una scelta, ripeto, forzata dal mondo del lavoro, ma ne siamo orgogliosi, in quanto crediamo che la cooperazione, che i valori che ci stanno dietro, la condivisione, la democraticità, se vogliamo, possano essere una soluzione migliore per mettere al centro le persone del lavoro. Però profitto, questi valori di cui lei parla giustamente sono importantissimi, è evidente, insomma, già solo il fatto di parlare di democrazia sul lavoro uno capisce l'importanza di quello che lei sta dicendo, però poi sappiamo che se non ci sono soluzioni pratiche, imprenditoriali e economiche che stanno sul mercato diventano solo belle parole, invece nel vostro caso le due cose marciano di pari passo. Lei tornerebbe indietro o mi sembra di capire di no, cioè siete più felici oggi, non so se guadagnate di più o di meno per esempio, comunque siete, lei stava per rispondere a quei, guadagnate di più o di meno intanto? Guadagniamo di meno, molto di meno, diciamo la metà. E questo però, come dire, è compensato dal progetto che avete intrapreso, cioè questa cosa vi garantisce una reale soddisfazione, quello che ci stava dicendo? Soprattutto la consapevolezza di dover fare dei sacrifici per arrivare ad avere anche un livello retributivo e guardare al futuro con una certa serenità, è questo che ci guida. È chiaro che facendolo in questa forma c'è una condivisione maggiore di tutto, anche del sacrificio, una condivisione anche dell'obiettivo finale. E la mia, cioè il mio, quello che ho capito fino ad oggi è che le persone sono fortemente motivate, seppur con retribuzione più bassa rispetto a prima. Personalmente io ho fatto una scelta di vita, perché io non ero tra gli esodati, ero già andato via prima, quindi avevo personalmente un lavoro mio. Quindi lei ha deciso di rientrare proprio per scelta, non era obbligato. Per scelta, esatto, beccandomi qualche volta qualche epiteto di pazzo, piuttosto che... Da chi? Dai familiari? L'hai sposato da sua moglie? Ma anche da conoscenti, amici, però... Sì. Era chi te l'ha fatto fare? Un... Potevi stare lì a fare il dipendente in qualche altra azienda, invece ti sei cacciato in questa cosa. Ma sa, nella vita bisogna in qualche modo provocarsi il futuro, non aspettarlo perché cali dal cielo col paracadute. E quindi sono scelte poi opinabili, ma fino a un certo punto, ma ognuno le fa perché le vuole fare. Comunque a questo punto, insomma, il vostro futuro produttivo lei lo vede abbastanza possibile? Lo meno possibile, come dicevo, siamo sempre in una fase molto delicata, perché di fatto siamo una startup partita da zero fatturato, e quindi bisogna sempre stare lì sul chi va là a cercare di rimpinguare il portfolio, di trovare nuovi prodotti, di eventualmente andare a costruire nuove linee di vendita, cioè bisogna pensare comunque andare a ricoprire quelle nicchie che molto spesso vengono lasciate dalle multinazionali che si sono concentrate ormai su prodotti, diciamo così, giustamente dal loro punto di vista, ad altissima redditività, per cui noi cerchiamo un po', se vuole, come quei battaglioni d'assalto che in qualche modo vanno a occupare spazi lasciati liberi dagli altri. Questa è un po' la nostra strategia. Piano piano credo che riusciremo a ottenere quello che è l'obiettivo primario, cioè nel 2016 arrivare, avvicinarci a 10 milioni di euro di fatturato. Magari in bocca al lupo per questo. Senta, facciamo un po' di training autogeno, ci dia questo messaggio, questa dichiarazione: salvare le aziende dal fallimento si può fare, noi l'abbiamo fatto, lo usiamo anche per il promo del programma, via. Salvare le aziende dal fallimento si può fare, noi l'abbiamo fatto. Bravi, e complimenti, ottimo. Perché è la verità, l'ha detto così, ma è la verità, nessuno ci crede perché sono pochi casi in Italia, però ci sono, è giusto parlarne e dare anche l'idea a chi è in difficoltà in questo momento, non che loro siano fuori dai guai, però sono già un passo in avanti, che si può fare. Grazie Salvatore Manfredi, presidente. Grazie a voi, buona della giornata. Phoenix Pharma. Grazie mille. Si può fare, cronache da un paese migliore. Passenger Gabardini, anche questa. The bella. Passenger Gabardini, quando Gabardini ha fatto un incidente, mi sembra perfetto. Comunque ero da solo. Non era una citazione del tuo incidente, ma della storia di cui andiamo a parlare, perché un po' come, insomma, al contrario di come fanno i passanti che passano e tirano via, ma però passando nella via di casa sua, adesso sto facendo un casino terribile, c'è chi resta, diciamo, c'è chi resta, si ferma, ed è il nostro amico Federico Bastiani, giornalista, tra l'altro blogger pure lui, abita in via Fondazza a Bologna e ci racconta la storia della Social Street che lui stesso ha fatto nascere. Una storia bellissima. Federico. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Passando, almeno così hanno raccontato le cronache, per via Fondazza un giorno, tu non sei di Bologna, non sei almeno nato in quella strada lì e non conoscevi nessuno. Hai detto, ma perché devo continuare a passare così senza capirci nulla? E cosa hai fatto? Hai aperto un gruppo su Facebook. Sì, esatto, volevo risolvere questo problema a costo zero, perché non volevo creare siti internet, ci sono delle app che ti consentono di fare queste cose. Ma vuoi fare una cosa agile, low cost. Esatto, agile, low cost, veloce, due minuti e basta. Ci voleva soltanto un pochino di buona volontà, un po' di fantasia e apertura verso gli altri soprattutto. E poi il miracolo è successo, perché piano piano hanno aderito in tanti. Sì, ho attaccato dei volantini lungo, l'ho messo sotto le porte delle case, le ho attaccate. Quindi alla vecchia maniera. Ma quanto è lunga via Fondazza? Perdonaci l'ignoranza. Non è lunghissima, io la ricordo perché ho vissuto a Bologna. Sì, sì, una di queste vie coi portici piccole di Bologna, molto bello. Ma ci saranno circa 2000 abitanti più o meno in una strada così. Però per far nascere il gruppo hai dovuto mettere i volantini. Bella, alla vecchia maniera. Certo, perché chiaramente, sai, c'è un po' la diffidenza, non è che potevo andare a bussare tutte le porte. E allora ho detto, beh, proviamo, vediamo. All'inizio io ero piuttosto pessimista, dico la verità. Ho detto, guarda, se si iscrivono 30 persone sono già contento. Tanto. Invece adesso? Adesso siamo 600 persone. Però, però. No, di più, sempre 602, sì. Ma tu sei convinto che siano tutti abitanti di via Fondazza? No, okay, o ci sarà qualche infiltrato? Bravo, ma perché uno può essere anche della via di fianco, sì? Allora, sì, esattamente. Adesso noi non siamo così fiscali, diciamo. Anche perché io mi iscriverò oggi, ti avviso, e non sono di via Fondazza, sto a Milano. Perfetto, però ti interrogheremo. Noi chiediamo sempre chi entra, da che civico è. Se non dai una spiegazione, allora no. No, lo puoi fare. Ci sono alcune persone che vogliono entrare perché vogliono replicare in altre strade. Per esempio, noi abbiamo aperto un sito che è socialstreet.it e stiamo mappando tutte le altre strade. Sono già una ventina adesso in tutta Italia, fra Roma, Milano, ce ne sono già che stanno nascendo. Quindi alcune persone entrano, magari stanno un mesetto, guardano un po' come ci auto organizziamo. Perché ecco, la cosa bella, scusa Federico, è questa, diciamolo, no? Perché facciamo un passo in avanti. Cosa succede? Uno, non so, ha bisogno di una babysitter, oppure uno va a dei bambini di 8 anni e dice, chissà se qualcuno ha dei bambini della stessa età nella via che possono giocare insieme. Tutte cose così che normalmente fai fatica a capire, perché oggi ognuno passa, appunto. Esatto. Le cose più semplici di sempre, ma che ci eravamo dimenticati totalmente. Cioè, ricreare il vicinato con quello che è più lontano dal vicinato, cioè i social network, se vogliamo. Esattamente. No? Ecco, ci tengo a precisare che poi l'obiettivo non è tanto questo, che gli esempi che hai fatto sono solo delle conseguenze. Molti giornali hanno parlato di economia, di mutuo soccorso. In realtà queste sono tutte conseguenze di un passo precedente, ovvero instaurare un rapporto di fiducia con chi ti abita accanto. Quello è l'obiettivo del Social Street. Che vuol dire anche non solo andare oltre il Facebook, andare, noi adesso sabato mattina ci troviamo a prendere tutti un caffè al bar dell'angolo. Io ho fatto il mio primo social birthday, non conoscevo nessuno, ho detto, cos'è il social birthday? Il compleanno? Sì. Il mio compleanno, l'ho fatto il compleanno di strada, era il 5 novembre, ho messo un posto, ho creato un evento, ho detto alle ore tot del 5 novembre ci troviamo al bar di via Fondazza, lì all'angolo. E sono arrivate 40 persone che non conoscevo. Quando c'è da bere gratis, ma soprattutto c'è il fondatore della Social Street. Ma non per quello, l'hanno anche replicato altri ragazzi e hanno funzionato. Chiaramente poi chi lo fa a orari diversi, chi ha famiglie. Però. Comunque è molto bella questa precisazione che fai, dove tu dici il fatto, diciamo, di un'economia di scala, del fatto di essere un gruppo coeso e numeroso, è semplicemente una conseguenza, cioè che il punto di partenza è dire, ma facciamo che ci conosciamo, facciamo che apriamo le finestre, uno dice, scusi, lei come si chiama, chi abita qui con me, molto bello. Esattamente, anche perché voglio dire, se uno deve cercare una babysitter, uno può chiedere un po' in giro così, ma un conto se tu conosci il tuo vicino di casa, magari prima pensa il tuo vicino di casa che non a chiunque altro, lo stesso per qualsiasi altra cosa che devi fare. Cioè che anche per comodità, in realtà, perché comodità, ci sono alcune cose che mi sembrano, che non al di là del risparmio. Di Detroit che aveva messo di fronte a casa della moglie il dito medio. Però questa è un'altra storia. No, però dico, sì, il fatto di comodità è bello. Ho visto fra gli esempi il fatto di dire sto partendo, ho delle cose in frigorifero, qualcuno vuole venirsene a prendere. Questo al di là dell'economia, che non credo che sia tanto la questione dell'euro, esatto, e mezzo, esatto, è il fatto del non spreco ovviamente, ma poi del fatto di essere vicini, perché nessuno prende e attraversa la città per andare a prendere due tramezzini e mezzo limone. Invece se è il tuo vicino è perfetto, e poi si risparmia, perché una volta queste cose si facevano telefonando, invece adesso si fa con internet. Esatto, quindi il social network è utile in questo senso. Ma per esempio poco tempo fa un ragazzo doveva dare via un frigorifero, sì, e cosa ha fatto? L'ha messo nel gruppo, poteva certo andare su eBay, fare la foto, metterla, pagare. Però ha voluto privilegiare i vicini. Invece cosa ha detto? Guarda, in quel momento c'era un ragazzo della strada di fronte che lo voleva. Hanno sceso le scale, hanno portato il frigorifero e in due minuti hanno risolto a chilometro zero. Ma senti Federico, voglio vivere in via Fondazza, posso dirlo? Adesso va bene, che ti adottiamo. Adesso che hai conquistato via Fondazza, stai conquistando Bologna, perché la social street di via Fondazza ha fatto strada. Vuoi conquistare anche l'Italia, l'universo? Cosa volete fare? Conquistare no, cioè non mi piace questa parola, ma soprattutto mi piace catalizzare l'entusiasmo delle persone, perché mi stanno scrivendo tantissime persone entusiasme che vogliono replicare questo progetto. Io sto cercando di catalizzare queste energie, e per questo abbiamo fatto il sito. Anche perché è gratis copiare questa cosa qua, quindi tutto, il bello niente, è quello, è solo l'idea, insomma. Sì, poi dopo se ci sono delle domande, noi abbiamo aperto questo sito anche per, insomma, per rispondere alle persone che vogliono replicare. Adesso ne hanno aperto anche in Sicilia, a Palermo, insomma, bellissimo. Non solo, stasera devo parlare con un ragazzo cileno, un professore dell'Università del Cile, che parlerà lunedì prossimo in una conferenza a Santiago del Cile di questo progetto. Quindi però via Fondazza sbarca in Cile, mamma mia, esatto. Complimenti Federico. Complimenti. Federico Bastiani, grazie da mille. Bologna, grazie. E questa è la storia della social street di via Fondazza. Tu che sei esperto di pronuncia inglese, sai che c'è il Bicycle Film Festival, come si pronuncia così? Bicycle Film Festival. Bicycle, vedi? Basta andare molto molto molto veloce. Bicycle, esatto. Bicycle. È un appuntamento che ogni anno c'è a Milano, è un modo per parlare delle due ruote. Credo che ne siano in qualche modo protagonisti anche i protagonisti della storia che andiamo a raccontare, Urban Bike Messengers, e il suo fondatore Roberto Peia. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 24. Buongiorno. Quando si parla di bici a Milano si parla anche di questo progetto qua. Lei quanto tempo fa ha fondato questa azienda praticamente di Pony Express in bicicletta, no? È questo? Sì, nel 2008 è nato UBM, Urban Bike Messenger, da una idea che ho spudoratamente copiato da una realtà molto diffusa da tantissimi anni, da decenni, negli Stati Uniti. Bisogna d'America. Copiare dove ci sono delle cose fatte bene, certamente. Certo, e lei è stato uno dei primi, perché adesso ce ne sono molti di Pony Express, va sempre la logistica, la mobilità sostenibile va per la maggiore. Quante persone lavorano con lei adesso? In questo momento 26, sono 26 ragazzi. Pedalatori, che tutti. Che sono la vera forza della mia azienda. Sono per lo più giovani, ovviamente, io sono il nonno della compagnia, innanzitutto amano tantissimo la bicicletta, quindi sono ragazzi che con noi fanno anche 70, 80, 90 km al giorno, ma sono capaci il sabato e la domenica di andare a farsi altri 100, 150 non km. Paghi, fanno... Non paghi, soprattutto non pagati il sabato. Sabato e domenica non pagati, dicevo, a farsi il ghisallo o il gavia, oppure a passare 3 o 4 ore in un velodromo sempre a spingere. Ah, ma sono quindi sportivi d'altissimo livello, cioè no, fanno il gavia? No, non sono personaggi che potrebbero affrontare il Tour de France o la Vuelta o il Giro d'Italia. Beh, però sono sicuramente ragazzi che sanno andare molto molto velocemente. Ma fate anche l'antidoping? Fate l'antidoping ai vostri ragazzi? No, facciamo l'antidoping perché sappiamo che sono tutti molto bravi, quindi non c'è bisogno. Chi è? È una curiosità. Quello che spinge è soprattutto la passione e la voglia di fare un lavoro bello che ti dà anche la possibilità di essere a contatto con la gente e di scoprire una città, la sì, tua città, Milano, in modo diverso sicuramente. Roberto, io ho una curiosità che voglio chiedere: chi sono i clienti che come Pony Express vogliono espressamente voi che andate solo in bicicletta? C'è un profilo particolare? Non c'è un profilo particolare, perché spaziamo dalla piccola azienda, dal commercialista, all'avvocato, al notaio, al tatuatore, alla grande azienda, a, se posso fare nomi, a Discovery Channel. Vabbè, non facciamo nomi, abbiamo capito. Dobbiamo purtroppo invece fermarci qua. La storia però l'abbiamo raccontata. Grazie Roberto Peia. E avete dunque insomma risentito alcune delle storie dei protagonisti, del meglio li si può fare degli scorsi mesi, un modo per tenerci compagnia anche in questi giorni di festa, giorni nei quali si può fare in diretta ogni sera dalle 18 alle 20:30. Dunque noi ci risentiamo domani con una nuova puntata registrata, poi dal lunedì prossimo tutto tornerà al suo posto, ognuno ha i suoi orari, quindi buona giornata, appuntamento a domani.